Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Italy is a country with a long history of immigration. Over 26 million people emigrated from 1861 to 1985, when the Italian emigration reached its peak. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, ultima puntata prima delle feste di Natale, vi regaliamo un'emozione artistica. Emozione a passo di danza. Menzione d'obbligo intanto per Silvia Lozza, videomaker freelance, autrice del documentario An Italian Diaspora, dedicato all'emigrazione italiana a Londra. Il video lo trovate su YouTube. La frase della settimana, d'obbligo, considerato il periodo e copyright di Papa Francesco, agevolare l'espressione e la crescita dei talenti è ciò che siamo chiamati a fare e per far ciò è necessario aprire spazi, non controllare gli spazi, aprirne. Si tratta di far circolare le capacità, l'intelligenza e le abilità di cui le persone sono state dotate. Liberare i talenti è l'inizio del cambiamento. Evidentemente, chiosa Bergoglio, parlando di talenti si sottintende che il discorso riguarda in particolare i giovani. Se vogliamo andare oltre, dobbiamo investire decisamente su di loro e dare loro molta fiducia. Intanto però rileva l'Istat, il lavoro atipico risulta essere la modalità più frequente di ingresso o rientro nell'occupazione. Su 100 persone occupate nel secondo trimestre 2014, che l'anno precedente dichiaravano di non lavorare, quasi il 56% svolge un lavoro per l'appunto atipico, incidenza che sale al 66% tra gli under 30. Nel secondo trimestre, oltre la metà dei lavoratori a termine aveva un contratto con durata inferiore a un anno e per una quota consistente degli atipici la condizione di temporaneità del rapporto di lavoro si protrae nel tempo. Di strada, insomma, per liberare questi giovani talenti ne abbiamo ancora molta da fare. E ora, come promesso, un assaggio di questa puntata natalizia che ci proietta nel mondo dello spettacolo, destinazione Stati Uniti. Il luogo comune che è tutto in America è tutto più veloce è veritiero, nel senso che se in Italia ci vogliono 3 mesi per preparare una produzione, in America in 3 settimane bastano e avanzano. Walter Angelini, 23 anni, è un ballerino al lavoro nello stato americano della Florida. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Motivi di lavoro, questa è la ragione principale della nuova emigrazione italiana secondo quanto appurato dall'inchiesta Generation E, curata da un team di giovani giornalisti che ha raccolto 1200 questionari di expats italiani, spagnoli, greci e portoghesi. Tra i connazionali ben 441 hanno detto di essere espatriati per questioni di lavoro, seguono ambizioni personali e motivi di studio, 259 di loro sperano di far ritorno a casa, 225 lo escludono a priori. Tra gli orizzonti temporali di chi intende rientrare prevale quello che ipotizza un controesodo tra oltre 10 anni. Infine, solo il 59% afferma di essersi registrato all'anagrafe italiani residenti estero. I giovani italiani sono sempre più disillusi rispetto alla possibilità di trovare lavoro in Italia e sempre più disponibili a guardare oltre confine. Oltre l'85% degli intervistati è convinto che in Italia siano scarse o limitate le opportunità lavorative legate alle proprie competenze professionali. Lo afferma il rapporto Giovani 2014. I dati, dice Alessandro Rosina, tra i curatori dell'indagine, rivelano come nelle nuove generazioni rimanga complessivamente alta la volontà di non rassegnarsi, ma come crescente sia pure la frustrazione per il sottoutilizzo delle proprie potenzialità. La probabilità che un under 30 italiano resti disoccupato è 3 volte e mezzo superiore rispetto alla popolazione adulta, lo rivela una ricerca McKinsey. Dialogo quasi assente tra scuola superiore e mondo del lavoro, insieme all'incapacità di utilizzare al meglio la forza qualificata, i problemi strutturali maggiori. Il 42% degli intervistati afferma di trovare lavoro grazie ad amici e parenti, percentuale che scende al 23% per i laureati. Intanto annaspa la garanzia giovani, secondo il monitoraggio informale condotto dalla Repubblica degli Stagisti. Più dell'80% dei giovani che si sono iscritti al servizio hanno ricevuto all'atto del colloquio al centro per l'impiego o nulla di concreto oppure un generico riferimento a future offerte di lavoro o stage. Il voto assegnato al programma è quindi un 4. Il ministro del lavoro Poletti ha annunciato il varo della fase 2 con modifiche sostanziali e un target di 570.000 giovani iscritti. Qual è il desiderio numero uno di chi è rimasto a lavorare in Italia? Cosa si chiede a un posto di lavoro nella penisola? Semplicemente essere apprezzati per ciò che si fa. Lo afferma la società The Network. Gli italiani sono gli unici su scala internazionale a porre questo parametro in cima alla lista. Questo la dice tutta. A seguire c'è la crescita professionale. timidi progressi dell'Italia sulle spese in ricerca e sviluppo, ma la penisola resta lontana dalla media europea, mentre in termini assoluti spende meno della metà di quanto faccia la Francia e un quarto della Germania. Secondo Eurostat, nel 2013 la spesa in ricerca e sviluppo ha raggiunto i 20 miliardi in Italia, 5 in più rispetto a 9 anni prima. L'incidenza sul PIL è salita all'1,25%, ma in parallelo è salita pure la media europea, oltre il 2%. In crescita gli investimenti in ricerca nel settore privato, come rende noto Scuola 24. Calano percentualmente quelli pubblici. E la fuga dei cervelli dall'Italia emerge anche dagli starting grants della Commissione europea, finanziati 328 giovani ricercatori comunitari, tra cui 28 italiani. Peccato però che solo 11 di questi lavorino nella penisola. Gli altri 17 sono sparsi tra Gran Bretagna, Germania, Olanda, Francia e Spagna. Siamo terzi dunque per numero di ricercatori, ma noni per progetti da realizzare sul territorio. Intanto i ricercatori precari lanciano l'iniziativa Science Bullet Challenge, liberiamo la ricerca, un gioco virale che ha come obiettivo denunciare le condizioni in cui versano i precari della ricerca pubblica. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in Florida, sud americano. Lontano dalle temperature invernali di questo periodo andiamo al caldo. Come vedremo, anche nel settore della danza i nostri giovani talenti trovano maggiori opportunità lontano da qui. C'è davvero di che riflettere. Nome: Walter. Cognome: Angelini. Età: 23 anni. Città di origine: Verderio Superiore. Studi: Teatro La Scala di Milano e American Ballet Theatre di New York. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009. Per andare dove? Per andare a New York. Perché? Garanzia di un lavoro dopo il diploma. Quale lavoro svolgi attualmente? Ballerino professionista. Dove? Florida, USA. Tornerai? Magari per mettere su famiglia in un futuro. Until the Last, brano musicale sulle cui note vi esibite a passo di danza in uno dei vostri video su YouTube. Per cominciare, oggi possiamo dire di vivere del nostro talento, di avere un lavoro che ci appaga pienamente di tutti i sacrifici che quest'arte richiede, di interpretare un repertorio vastissimo. Rimanendo in Italia non avremmo mai potuto realizzare tutto questo assieme, ci scrivi. Walter, partiamo dalla fine della storia stavolta e da quella frase amara che hai scritto a chiusura del tuo pensiero. Perché restare in Italia, patria mondiale della cultura, equivale ad autocondannarsi a dei mezzi successi? Sì, purtroppo in Italia la danza e l'arte in generale non è valorizzata e non viene data la giusta importanza e il giusto peso a un patrimonio culturale e secolare che abbiamo, meraviglioso. Rivolgiamo il nastro della tua storia, Walter, partendo con le tue origini in un paesino della Brianza, in un contesto culturale che spinge i bambini verso il calcio, quale unica ambizione sportiva? Beh, tu scopri la danza. Quale potente passione ti ha portato su questa strada? Premettendo che non credo nel destino, penso che in qualche modo la danza sia sempre stata la mia strada. Ho sempre ballato, nel salotto di mia nonna mi divertivo come un matto, saltellavo da una parte all'altra. Ricordo che ascoltavo le canzoni di Rita Pavone o guardavo con mio papà la televisione concerto di Prince, ballavo. E le idee tu ce le hai chiare fin da subito, tanto che a 6 anni chiedi ai tuoi genitori di iscriverti alla scuola di danza. Dalla danza moderna passi, su felice intuizione della tua insegnante, a quella classica, fino alla svolta della vita, la partecipazione al concorso per l'Accademia del Teatro della Scala di Milano, e avevi 10 anni. Come andò a finire? Ricordo una grande calca davanti alle porte scorrevoli dell'Accademia, dove era appeso l'esito dell'audizione. Con stupore di tutti e soprattutto il mio, avevo vinto il concorso classificandomi primi in graduatoria, ma non avevo idea di quello che mi aspettava, di come la mia vita sarebbe cambiata radicalmente. Già, lì a breve. Perché a quel punto inizia un lungo percorso di ben 8 anni all'Accademia, il debutto sul palcoscenico della Scala a soli 11 anni con lo Schiaccianoci, esperienza tutt'oggi indimenticabile. Ma in termini di sacrifici e rigore, quanto è stato duro frequentare le scuole dell'obbligo e in parallelo l'Accademia? Molto, senza dubbio. Al mattino fino alle 2, l'una alle 2, scuola media, al pomeriggio fino a 6 inoltrata danza, danza classica, contemporanea, danza di carattere, passo 2, pilates, barra terra, anatomia, storia della musica, del balletto, 6 giorni su 7 tutto questo, e a volte si lavorava anche nelle festività, anche a vigilia di Natale, nel caso dello Schiaccianoci. Ed eri giovanissimo. Giovanissimo, il primo spettacolo alla Scala avevo 11 anni. Le tue prime esperienze all'estero nel mondo della danza, già nel corso delle vacanze estive, se invece dovessi dare tu un voto complessivo ai tuoi studi di danza in Italia? Ma la preparazione a livello tecnico è sicuramente 10. Abbiamo una cura maniacale dei dettagli, cosa giusta in parte nella nostra professione, anche se a volte viene trascurato un aspetto fondamentale che è la parte artistica. e viene invece curata la parte più prettamente tecnica. Un'altra svolta significativa: a 17 anni tutto inizia con le 6 settimane di stage estivo all'American Ballet Theatre di New York. Come approdi negli Stati Uniti, ma soprattutto quali differenze nell'ambiente di lavoro ti saltano subito all'occhio? Il primo giorno proprio di stage, se non il giorno successivo, mi viene offerta una borsa di studio completa per concludere i miei studi accademici. Non nascondo che sia stato difficile prendere la scelta di lasciare l'Italia. Mi allettava l'idea soprattutto di avere un lavoro dopo essermi diplomato. E soprattutto, diciamo, come ci scrivi, Walter, negli Stati Uniti ti sentivi un giovane adulto ascoltato. In Italia notavi invece la paura di far emergere il talento. E io ti chiedo, è un problema solamente culturale o c'è anche dell'altro nei due diversi approcci? Sicuramente la cultura diversa, completamente diversa, gioca un ruolo fondamentale. Spesso in Italia si tende a soffocare il talento perché c'è un iter lunghissimo da seguire che non ti permette di esibirti in certi ruoli o di fare certe cose fino a una certa età, mentre in America questa barriera non c'è. Un altro aspetto appunto è quello che in Italia spesso essere giovani viene visto come un problema, non si è considerati importanti o si viene giudicati diversamente solo perché si è giovani. L'ultimo anno accademico lo trascorri così nella grande mela, diplomandoti a New York, e alla fine strappi persino un contratto col Boston Ballet, ma poi un cavillo nel permesso di soggiorno ti obbliga al ritorno forzato in Italia. Qui incroci Ines, tua attuale compagna di ballo e nella vita, che tra poco ascolteremo, ma chiediamo subito a Ines come e dove vi siete conosciuti. Allora, stavamo entrambi lavorando come freelance e ci siamo incontrati a Milano durante una lezione dal maestro Walter Venditti. E da subito la mia vita è cambiata perché ho incontrato il mio grande amore e anche il mio partner di lavoro. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Walter Angelini, 23enne ballerino al lavoro negli Stati Uniti. Per lui studia all'Accademia della Scala, conclusi poi negli Stati Uniti. Il ritorno in Italia gli restituisce il quadro di un paese dove l'arte e la danza sono a un passo dall'asfissia. Qui la sua strada si incrocia con quella di Ines Albertini. Entrambi lavorano ora oltreoceano facendo coppia fissa, con grandi soddisfazioni professionali. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Sia prima di partire per gli Stati Uniti, sia al tuo rientro, quale idea ti eri fatto delle opportunità di lavoro in Italia per neodiplomati in danza? Ma poche, pochissime, soprattutto bassa retribuzione, vedevo molti dei miei colleghi precari e una gran parte disoccupati. Questa è insomma l'idea generale. Come funzionano le audizioni per i ballerini nella penisola? Molto spesso le audizioni sono un pro forma, nella maggior parte dei casi non vi sono contratti disponibili. Quando ve ne è qualcuno disponibile, hanno la precedenza delle persone raccomandate. E in ogni caso sono quasi sempre contratti stagionali, quindi vi è molta precarietà. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Anche in Europa non vedevamo una situazione molto diversa, così abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti oltreoceano. Sarà proprio l'America il luogo dove riscuoteremo il maggior successo. Tante compagnie statunitensi hanno risposto positivamente alle nostre applications. Ci scrivi entusiasta. Dove inizia la vostra avventura e come siete stati selezionati? La nostra avventura inizia nel New Jersey, presso l'Atlantic City Ballet. Abbiamo iniziato a mandare video in scena, in sala, con i nostri curriculum, le nostre biografie. E abbiamo da subito riscontrato un grandissimo successo ed erano interessati soprattutto ad averci come coppia, tant'è che io avevo già firmato anche un altro contratto, ma proprio questo posto in New Jersey ci voleva assolutamente insieme. Walter, avete generalmente trovato un ambiente più meritocratico e attento al talento negli Stati Uniti? Sicuramente sì, se c'è un talento viene data la possibilità di tirarlo fuori e di coltivarlo giorno dopo giorno. Negli Stati Uniti abbiamo registrato una costante crescita tecnico-artistica con salari e benefits maggiori rispetto all'Italia, ci scrivi. Allora, per fare il punto, quanti stati e compagnie avete attraversato in soli 4 anni e in quale ruolo lavorate ora? Allora, in 4 anni abbiamo attraversato 4 stati e lavorato in 4 compagnie diverse e attualmente siamo primi ballerini. Quello che ci ha portato sempre a spostarci è la voglia di conoscere realtà diverse e soprattutto la possibilità di una crescita a livello di benefit e di ruolo. C'è anche brevemente un discorso economico da affrontare legato a come l'arte si finanzia e si autofinanzia in America. Mentre qui tutto langue e declina, negli Stati Uniti avete sperimentato e scoperto un modello dinamico di sostegno al mondo dello spettacolo. Come funziona concretamente? Concretamente quasi ogni settimana portiamo in scena una produzione diversa. Siamo spesso in tour in Florida e in altri stati. Il luogo comune è che tutto in America è tutto più veloce veritiero, nel senso che se in Italia ci vogliono 3 mesi per preparare una produzione, in America in 3 settimane bastano, avanzano. Quello che accomuna tutte le compagnie è comunque la voglia di farcela, la voglia di condividere la danza con il maggior persone possibili. E i finanziamenti li vanno a cercare se non ci sono? I finanziamenti, se non ci sono, vi sono intanto delle campagne per promozionare la danza verso tutti, quindi anche i privati fanno il possibile e il passaparola ha un ruolo fondamentale. Domanda di rito per te: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Cosa vedo che non va? Per me l'Italia dall'estero mi viene in mente una favola, un po' come la Bella Addormentata. Bella, bellissima, ma tutto è fermo. La mia proposta sarebbe, per quanto riguarda l'arte, quella di, invece di allontanare sempre di più le persone, cercare di avvicinarle partendo dalle scuole, quindi valorizzando quello che abbiamo e veramente insegnando storia dell'arte, storia della musica, storia della danza, portando i ragazzi, i giovani a teatro. Ci raggiunge ora in linea nuovamente Ines Albertini, partner professionale e nella vita di Walter Angelini. Buon pomeriggio, Ines. Buon pomeriggio a tutti. Rieccoti. Prima di cominciare a raccontare la tua parte di storia, ricordiamo subito che tu e Walter avete rappresentato nel giugno di quest'anno l'Italia, la World Ballet Competition, ballando nella finale della categoria professionisti. Che effetto ti ha fatto portare la nostra bandiera anche solo simbolicamente all'estero? È stato un'emozione, è stato molto emozionante ed una grande responsabilità. E abbiamo avuto anche l'opportunità di confrontarci con talenti provenienti da tutto il mondo. Tu a ballare inizi a 5 anni nella provincia di Piacenza. A differenza di Walter, però, prendi molto prima la strada verso l'estero. A 14 anni capisci che l'Italia non è il posto giusto per costruirsi un futuro nella danza. Come arrivi giovanissima a questa decisione? Durante la mia prima esperienza all'estero, al Royal Ballet di Londra. E lì ho compreso che la mia carriera come ballerina professionista doveva venire all'estero, perché sapevo che sarei cresciuta molto di più professionalmente e attraverso anche lo studio di molte altre discipline che sono molto importanti oltre alla danza classica, e avrei avuto più opportunità in futuro anche di trovare un lavoro in compagnia. Il primo espatrio per te in Svizzera, alla scuola di Basilea. Qui tornano le considerazioni di Walter quando scrivi: ancora oggi stupita, tutti mi trattavano con rispetto. Allora, su 2 punti sei molto netta nel raffronto Italia-estero: la possibilità di esibizione sul palcoscenico e il rapporto con insegnanti, 2 parametri in cui l'Italia appare perdente. Spiegaci meglio. Tutti mi trattavano con rispetto, mi sentivo già come una piccola star. A 14 anni, tra l'altro. Sì, a 14 anni, nonostante fossi soltanto una studente. E anche se non ero ancora diplomata, ballavo dei ruoli importanti, mi esibivo in diversi galà, anche con la compagnia, e diversamente da come funziona in Italia. Infatti fino al raggiungimento degli ultimi corsi si hanno proprio pochissime possibilità di esibirsi sul palcoscenico. E il rapporto con gli insegnanti? Il rapporto con gli insegnanti era ottimo, anzi mi aiutavano a crescere e mi mettevano a disposizione proprio tutte le loro conoscenze per migliorare il passo. E così anche in Italia? Meglio di me. No, proprio no. Perché? Anzi, a volte gli insegnanti diventano quasi, non dico cattive, ma quasi, perché si tende a soffocare il talento. Questa è una cosa che non avviene solo nella danza. Perché, secondo te? Perché probabilmente sono frustrate. Molto semplice. Da Basilea ti trasferisci a Zurigo, dove ti diplomi all'Accademia di Danza. A quel punto inizi la tua carriera come ballerina freelance in Europa. Con Walter abbiamo già tracciato un affronto tra Italia e Stati Uniti. E ti chiedo, tra Italia e il resto dell'Europa, quale delle 2 aree offre maggiori opportunità? Sicuramente l'Europa. Le compagnie sono molto più numerose e le persone sono più vicine al mondo dello spettacolo. Il tuo ritorno a Milano portava scritto nel destino, l'abbiamo detto, l'incontro con Walter, con la nascita di una coppia nella vita e sul lavoro. E il dettaglio forse più interessante del vostro espatrio comune è che avete scelto la compagnia, lo diceva poco fa Walter, che più di tutte voleva avervi insieme. Ines, domanda secca: ci potrà mai essere un futuro per voi stabile in Italia, o questo è un paese buono solo per farci le vacanze? Per le vacanze sicuramente, attualmente non vedo proprio un futuro in Italia, l'America ci offre molto di più da tutti i punti di vista, anche se un giorno non si sa mai, ci piacerebbe fare qualcosa di speciale per la nostra patria, mai dire mai. In bocca al lupo Ines, e domanda di rito per Walter Angelini: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio è comunque quello di non demordere, di guardarsi intorno, di già, anche se si inizia a studiare in Italia, fare sempre esperienza all'estero di non avere paura di andare, partire e fare le valigie. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una responsabile comunicazione e due project officers per il Sudoe Interreg 4B a Santander in Spagna. Scadenza per i CV 23 dicembre. Email a candidatura@interreg-sudoe.eu. Un funzionario legale per la European Medicines Agency di Londra. Scadenza per i CV 10 gennaio. Info su ema.europa.eu. E infine un coordinatore dei programmi accademici presso la Central European University di Budapest. Scadenza per i CV 5 gennaio, candidature a recruitment@ceo.hu. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. What I have to do, what I would like to do. Questo è il titolo della mostra che il fotografo Christian Iotti ha organizzato nei mesi scorsi al Museo Italiano di Melbourne. 15 storie e 30 foto per raccontare chi sono i protagonisti della nuova emigrazione italiana in Australia. Ne abbiamo parlato con Christian Iotti. Volevo trovare un modo per dare visibilità alla realtà che si trova in Australia e che molto probabilmente trova ogni persona che decide di emigrare al di fuori del proprio paese. Chi sono i giovani che hai ritratto in questa mostra? Sono tutti ragazzi dai 25 ai 35 anni che si sono trasferiti in Australia perché purtroppo, come sai benissimo, la realtà italiana è molto, molto malata, mi piace chiamarlo così, e quindi sono andati lì per trovare possibilità di lavoro, per farsi un'esperienza. Quindi c'è chi ha il permessi di residenza, c'è chi ha permessi perché gli ha dato il datore di lavoro, o c'è chi come me è là solamente per una parentesi di vita e poi dopo tornare a casa. Però nonostante questo va avanti con i suoi credo che si porti in valigia. Sono storie di successi o di insuccessi? Chi ho fotografato dei successi, perché comunque tutte le persone che ho fotografato volevo trovare dei contrasti abbastanza evidenti, quindi da chi faceva il bartender a faceva produttore di musica, o piuttosto che chi faceva la gelataia fa l'insegnante per i bambini. Quindi sono successi in realtà, perché sono persone che si sono date da fare, si stanno dando da fare e sono riuscite a concludere e a chiudere un qualcosa. Tornerebbero in Italia? Secondo me no. C'è, secondo te, un'onda montante di giovani italiani che cercano fortuna in Australia? Assolutamente sì, perché comunque è un paese che se tu vali ti viene riconosciuto. Consiglio personale, dopo la mia esperienza, perché comunque è stata di 8 mesi, però sono stati veramente intensi, posso consigliare che per andare in quel paese lì bisogna sapere bene l'inglese e bisogna andarci per un, diciamo così, per un motivo. Cioè, tipo, io volevo andare là per fare i lavori fotografici, tornare a casa, portarli con me e imparare l'inglese. Questo l'ho fatto. Sconsiglio persone che vogliono andare là perché non sanno cosa fare, oppure che vogliono trasportare la loro vita, esattamente quello che facevano in Italia, là in Australia, perché lo puoi fare. La comunità italiana è veramente tanto grande, quindi in realtà si può anche tranquillamente vivere anche quasi senza parlare inglese. Però quello che consiglio è di non farlo, perché si sta riempiendo anche là. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cristianiotti.com. Un motivo per restare o tornare. Il 41% delle imprese nate nei primi 6 mesi del 2014 sono state create da under 35, lo sottolinea una ricerca Unioncamere. Delle oltre 90.000 nuove imprese, il 24% è opera di under 30. I giovani neoimprenditori aprono aziende prevalentemente nel settore commerciale e nei servizi alle imprese. I laureati si rivelano più propensi degli altri all'utilizzo dei social network e all'offerta di servizi online, quali l'e-commerce. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Attrarre Talenti. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre. A conclusione del 2014, quanto avete visto aumentare quest'anno il grado di attrattività dell'Italia nell'ottica di un possibile ritorno nella penisola? Vedete il paese muoversi nella direzione giusta di attrazione dei talenti? Indicateci il vostro voto sull'attrattività italiana da 1 a 10. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.